DPCM del 3 novembre indica la chiusura, predispone la chiusura dei centri commerciali nei fine settimana, e parla solo ed esclusivamente di centri commerciali, non di parchi commerciali e non di medie e grandi strutture di vendita. Poi ovviamente esclude, come già era successo in precedenza nella fase del primo lockdown, quelle che sono le attività di vendita di beni essenziali come i supermercati generi alimentari, ma questo lo sappiamo benissimo, è ovvio, comprensibile e normale. Questo ha creato qualche difficoltà, ha creato qualche incomprensione. In realtà l'obiettivo di quel DPCM era quello di cercare di evitare possibile il concentramento e l'afflusso di persone all'interno di gallerie, di centri commerciali chiusi, e non precludere la possibilità di restare aperti ad attività commerciali che sono in parchi commerciali o medie e grandi strutture di vendita freestanding, quindi che hanno un accesso autonomo. Noi crediamo e riteniamo che ci sia la necessità di ritornare e di rivedere bene la corretta e giusta applicazione di quelli che sono i contenuti dei protocolli di sicurezza che sono stati fatti. Tra l'altro noi in questa regione, in Emilia Romagna, a maggio abbiamo definito congiuntamente come organizzazioni sindacali, con le associazioni di categoria, le associazioni datoriali, la regione, il servizio sanitario regionale, dei protocolli di sicurezza proprio allo scopo di prevenire il contagio in quelle attività, in quei luoghi di lavoro che noi definiamo luoghi di lavoro aperti, ovvero dove c'è l'afflusso di clienti, di utenza e quindi di persone esterne ai luoghi di lavoro, come possono essere negozi, come possono essere supermercati di generi alimentari, farmacie, negozi di abbigliamento, bar, ristoranti. Noi riteniamo che ci sia la necessità di tornare in maniera rigida e corretta all'applicazione di questi protocolli che hanno definito delle regole che devono essere rispettate, perché riteniamo che se le regole vengono perfettamente rispettate si possa lavorare in sicurezza chi lavora all'interno di questi luoghi di lavoro e accedere in sicurezza ai clienti che devono andare in questi luoghi di lavoro. C'è bisogno di una maggior consapevolezza da parte di compreso anche l'appello che noi rivolgiamo a tutti quanti, che noi siamo anche consumatori, evitare di andare in negozi, in luoghi di vendita solo per fare una passeggiata. Insomma, andiamo se dobbiamo acquistare, se non dobbiamo acquistare evitiamo, perché questo non è il momento per fare passeggiate all'interno di negozi, per guardare la merce, per osservarlo. Non è oggi in questa fase. Cerchiamo di preservare la salute e cerchiamo di preservare anche i posti di lavoro, perché se le attività poi sono costrette a chiudere, mettiamo a rischio anche l'economia e anche i posti di lavoro. Nello specifico, ci sono direttive ufficiali su come ad esempio calcolare la capienza magari di un supermercato, facciamo un esempio? Nei protocolli che citavo prima, definiti qui in regione, ma poi sono anche previsti nei protocolli nazionali e sono allegati ai DPCM, ci sono indicazioni molto chiare, tanto quelle di evitare assembramenti all'interno. Poi lì c'è l'indicazione rigida di quelle superfici di vendita fino ai 40 metri quadrati dove vi può accedere solo una persona alla volta. È evidente che in superfici maggiori cambia il ragionamento, non c'è la proporzione stretta e diretta, però c'è l'indicazione rigida di evitare assembramenti. Significa che le aziende hanno la responsabilità di contingentare gli accessi proprio per evitare che in particolare aree all'interno di un negozio possa crearsi dell'assembramento. Faccio un esempio: all'interno di un supermercato dove è più facile che si crei un assembramento, dove può esserci l'acquisto, il self-service dell'acquisto, il reparto ortofrutta, dove la persona, il cliente sceglie la frutta, poi se lo pesa. Ecco, in quella circostanza lì si possono creare degli assembramenti. Lì ci deve essere la vigilanza e la sorveglianza per far sì che questo venga evitato. Lo si può fare anche contingentando gli accessi e tenendo controllata l'affluenza all'interno dei negozi. C'è anche un calcolo sui metri quadri della superficie dell'area vendita rispetto al numero di persone che ci possono stare? I protocolli definiscono che fino a superfici di vendita fino a 40 metri quadrati non vi può accedere più di una persona alla volta. Sopra? Dice solo questo. Poi sopra dice che devono essere garantite modalità che evitino l'assembramento all'interno della superficie di vendita. Non dà una definizione esatta, cioè non riporta quei 40 metri quadrati alle dimensioni superiori, però indicano che devono essere evitati assembramenti all'interno. va tenuto conto di come è costituita l'area di vendita, di come può essere affollata l'area di vendita e di come è l'afflusso all'interno dell'area di vendita. Un'ultima questione riguarda i lavoratori di quei appunto servizi essenziali, sempre ovviamente stiamo parlando nel commercio, quindi come ricordavi prima, ovviamente i luoghi che vendono cibo ad esempio non hanno mai potuto chiudere per evidenti necessità. Ci sono state o ci saranno campagne di screening di quei lavoratori? E al momento non sono previste, però non lo escludiamo. Io credo che il ragionamento debba essere fatto anche su questo, perché comunque sia lavoratori e lavoratrici che forniscono servizi essenziali, e qui parliamo in questo caso di addetti ai supermercati, alle farmacie, cioè comunque quelle attività che restano e sono comunque sempre rimaste aperte, è evidente che una valutazione sarà necessario farla anche da questo punto di vista qui. Poi qui riapro un ragionamento già fatto da parte nostra anche in passato. In questa regione il presidente Bonaccini, nella fase più complicata di espansione dei contagi, con una ordinanza regionale aveva predisposto anche la chiusura domenicale dei supermercati. Ecco, io credo che qualora si dovesse arrivare a restrizioni maggiori, forse qualche intervento anche da questo punto di vista qui dovrebbe essere tenuto in considerazione, sempre ovviamente in prospettiva di limitare il più possibile la circolazione delle persone quando può essere fatto e anche quando tutte le altre attività sono chiuse.